sveglio, sei o stai dormendo? C'è qualcuno su 10? C'è qualcuno sul canale 10 in ascolto? Meglio quello, Vabbè Antonio, vediamo se si è messo a piombo. Gli avevo mandato anche gli auguri di Pasqua tramite WhatsApp, però forse non ce l'ha nemmeno più WhatsApp Antonio. Il messaggio non risulta nemmeno letto. Adesso vediamo. Sì, buonasera. Stavo dicendo, e cosa c'è? Qua è successa qualcosa? Aspetta, chi ha parlato assieme? Antonello, sei rientrato? Sono qua, non ti preoccupare, tranquillo. C'è questo rumore che sento sotto. Ehi, non lo so, cosa ha detto Antonino? Non posso parlare. Non c'è problema, per quello non preoccuparti. Siamo a posto. Ehi, ho detto, ma WhatsApp ce l'hai ancora? Avevo mandato gli auguri di Pasqua, ma non risulta letto nemmeno. Ciao. A posto, quello... ciao, mi... Non preoccupati. Non preoccupati. La timbrica è un po' diversa, la modulazione, non è la solita. E tu, riprendi un po', dai. Cappa, aspetta che sto salutando mia cognata che se ne sta andando. Ecco, dai, adesso posso riprendere. E quindi cosa? Come l'hai passata la Pasqua tu? La Pasqua per la verità, comunque sia. Tutto a posto. Marco. Allora, Pasqua qua a casa di mia zia. Quindi una traversa più giù, sempre mangiato, giocato, le solite menate. Pasquetta in campagna, stessa cosa. Mangiato, giocato a cose di tombola questa volta, un gioco più stupido, vabbè. Non siamo rimasti nemmeno troppo però, in campagna. Che mio zio era messo un po' male, non se la sentiva, allora l'abbia avrei accompagnato a Sassari. Insomma, alle 6 di sera eravamo di nuovo a casa, dai. Così, una Pasqua del Menga un po'. Poi ero travagliando, ero a Castel Sardo, vero? Era a Castel Sardo lavorando. Sì, e proprio il giorno di Pasqua, che cosa hai fatto, Antu? Una roba tipo turistica o... Secondo te forse io roba turistica? Ma lo sai il lavoro che faccio? Non so, io ricordo le bombole, poi avevi fatto anche roba audio. C'era roba audio, avete montato qualche impianto? Sì, nella ditta dove abito io, l'impianto. Lavoro io. A parte che la Pasqua, se non sei molto credente, insomma, alla fine ti riunisci solo per mangiare, così per giocare a carte, giocare a quello tombola, monopoli, quello che è. E tu Antonè, vabbè, lì non so se sia rimasto a casa con chi c'era anche là, non mi viene il nome. Tua sorella eri, insomma, in famiglia, Pasqua. Sì, quello sì, abbastanza sì. E lo dio è rimasto qua a casa. Capo. Io purtroppo oggi ho lavorato, infatti gioco il stracco un bel stanco. Ehi, oggi è una bella giornata. Ho portato mamma oggi in giro a fare un bel giro, se no si deprime a casa. E così fate varie commissioni, un po' di spesa, poi cucinato qualcosa e poi viene questo abbiocco dopo ho mangiato, ma una cosa fuori di testa. Sono stato dopo 3 ore proprio addormentato. C'era la gatta a farmi compagnia sul letto. Ma proprio sai quando ti viene a piombo mio. Lo so, è vero. C'era, vabbè, in macchina c'era caldo, in macchina, se no già c'era l'arietta fresca. E dice che mi pare fine settimana, tipo domenica, dovrebbe venire una bella bolla di calore, un po' di calore anomalo per l'alta pressione dal Nord Africa. Arriva in dirugaglio, mi, per carità, guarda, lo soffro troppo. Marco, meglio il caldo che il freddo, mi. Ah. No, la verità, io preferisco il freddo che non il caldo, perché col caldo più la pelle non me la posso togliere, capito? Meno male col freddo ti copri, ma il caldo per me è terribile, io ci morirò in estate. E Giovanna, già sei tu, sì. Ciao, adesso benissimo d'estate, anche a 40 gradi, anche 43. Ma saluto Giovanna. Buonasera. Finalmente una voce femminile al baracchino, siamo tutti maschietti qua. Ogni tanto una boccata d'aria, uno spiraglio di luce nelle tenebre. Esagerato, va. Non c'eri avanti ieri, è entrata Rita. E chi è? Ma una vecchia cibie? Appa, mi ha fatto molto piacere sentirla, la verità. Beh, Marco. Aspetta, oggi pomponio di poche parole, dai. Magari per la sorella. Attore! È qui, è tutto lo spazio. Ah, sì. Bravo, la modulazione diversa, ecco. Ah, poi l'antenna messa a serata. Ha cambiato microfono o radio, boh. Aspetta un secondo, calma lì. Mi ha sequestrato. Ascolta. Siccome io ho detto a Giovanna che in pratica è strana, capito? Quando non è più a un certo punto la polizia può, quindi ti viene con il processo, cosa ti posso dire? Quella che ho preso il microfono, a un certo punto qua cici dimmelo tu, dammi l'aiuto, a un certo punto bevuto che cosa? Allora facciamo così, facciamo parlare a Giovanna e parlare a loro tranquilli, si mette la spada, sì, no. Falcone, ok, siamo Falcone, ok, facciamo a posto. Ai Che problema c'è? Allora, come prendo il microfono in mano? Scusa, ma non è che c'è una mano gigante, no? Prego! Poi c'è un muro che ci separa dalla... Voglio che tu parli, sei da fare tutto il posto che non parli a baracchina. E quando capita che salgo per la baracchina, ho salutato a tutti. Bello che ti ho salutato! Sì, tranquillo, non c'è nessun problema. Problema c'è, non ce n'è problema, il capo, ci mancherebbe. Riprendi. Marco, ci sei ancora? Io stavo per andare in cucina a preparare un caffè mi faccio, così almeno seguirò un po' di TV dopo. Mi ha bruciato la serata un po', la Biocco è proprio bruciata la serata, devo fare varie cosette, vabbè, già c'è tempo. E dai, ne approfitto, vado in cucina e faccio questo caffè. Poi se rientro in tempo utile, bene, se no ritenetevi tutti super salutati, ok? Sì, capo, non c'è problema. Ciao. Marco, ci sentiamo. Vabbè, hai fatto bene a dormirti, vuol dire che stavi di stanco o ti sei addormentato tutto lì? E poi, sì, ma stanco di cosa? Se mi viene proprio questa stanchezza, questo sonno, manco avessi fatto il cammino di Santiago, no? Ma niente, così non ti viene sonno. Ma non stai lavorando tu, no? Naturalmente no. Beh, Giovanna, avete parlato in due, Giovanna, ripeti. Ma se non mangiare niente, ogni volta che si mangia qualcosa, a me per esempio perenne viene il sonno. Dopo pranzo, dopo un'oretta poi mi viene proprio la biocco, normale. Poi con questo periodo, caldo, freddo, freddo, caldo, cambiamento anche dell'orario, quindi siamo ancora di giorno alle 8 di sera, poi di su. Si deve ancora abituare. Ma sono accorto dopo due giorni che è cambiato l'orario. Pensa a due. Oh, d'altronde Giofà, si dice anche aprile è dolce dormire, però bisognerebbe dormire la notte. Purtroppo io ho una qualità del sonno notturno, una qualità pessima. Cioè posso dormire anche tante ore, però poi mi sveglio più stanco di prima. E quindi bisognerebbe cercare di migliorare la qualità del sonno notturno in modo da essere più attivo di giorno. Se no cosa faccio? Il vampiro faccio. Allora io per esempio dormo 5 ore e mezzo a notte, oppure massimo 6 ore, non di più, 8 ore non ce la faccio. Se io dormo 8 ore mi sveglio più rincoglionita di prima. E io lo stesso, io già sono incoglionito, mi sveglio ancora più incoglionito e quindi siamo sempre lì. Comunque ha ragione, il passaggio di stagione mi fa questo effetto, l'ho notato, come poi arriva un po' questo caldo, la primavera eccetera, poi c'è quel proverbio, te l'ho detto, aprire dolce dormire. Va bene, a dopo, se te l'ho detto, se ci siete ancora bene, se no ritentevi salutati. Ok, ciao Giovanni, mi ha fatto piacere sentirti, dai. Riprendi. Marco, per me la giornata di zucchero virtuale va benissimo. Una girata di caffè, poi te lo bevi tu però, perché mi è male. Riprendi il bambolo. Sono andata a rispondere al telefono. Ci siete ancora? Sì, ci sono io, adesso tra poco ti passa anche Antonello. Cappa. Scusa. Io l'altro giorno sono andato a quel circolo che c'è lì, a Caniga, ma ci andate anche voi? Caniga? No, Caniga no, non so neanche dov'è questo circolo io. No, stavo frequentando il circolo che c'è da Lacconi credo, quello di Cristian alla Pedoggia. A pranzo e basta, devo sentirmi un po' di karaoke, ma non è che ci frequento spesso tutti i sabati, anche perché sto lavorando. Ma costa la bacciccia, io ne ho un gioco io. Quello lì della bacciccia. È troppo dolo. Ogni tanto già vado pure io, e che non ho tempo. Purtroppo per il bambino, lavoro e cose, non ho tempo di andarci. Purtroppo il bambino devo tenerlo io in certi momenti, quindi vabbè, qualche volta lo posso anche portare perché c'è anche il nonno lì e via, ma non mi va a portarlo molto al circolo. No, ma fai bene anche perché quanto tempo hai il bambino piccolo? Un anno e 4 mesi, purtroppo la sosta è Antonello, ma è successa una disgrazia, tocca un po' mia cognata, un po' io, tocca tenerlo. No vabbè, l'ho saputa tramite Facebook, perché avevo molti amici in comune e poi io. Avevo modo di vedersi persona attraverso di persona, però non sembrava fare le condoglianze, proprio una cosa che ha fatto rivivere nuovamente purtroppo la mancanza. E capisco benissimo la tua situazione. Capisco benissimo anche perché non è facile, quindi però mi dispiace tantissimo veramente, anche perché solo che eravate anche da poco sposati, sì, ma comunque fai bene a non portare un bambino di un anno e mezzo al circolo, anche perché il volume è molto alto e poi c'è tanta gente, poi se ha bisogno di uscire, cioè non è un bambino di un anno e mezzo, penso che si iniziano anche i primi passi e tra il volume e il resto magari gli dà fastidio, capito, gli farò che tutto, però stare col nonno, meglio che sia col nonno e poi con le cognate, quello sì. È un po' stanza con mia sorella, sepolta Olbia. Stanotte con me, domani sarà con me lo stesso. Adesso vediamo, a fine settimana se lo porta mia sorella, non lo so. Almeno sarà un po' libero anche io. Ma lo stesso, con lavoro una cosellata, poi con tre figli, no, vabbè, ne ho una grande, poi mio nipotino, 6 anni, l'altro figlio di 15, quasi 17 anni, l'altro di 11, però non ho provato a portare una volta al locale la pizza, ma non, il volume è troppo alto, quindi non ce la fa, per esempio anche Daniela può portare il volume. Giulio, mio nipote, non sta fermo, ogni 3x2 mi deve alzare, andare fuori, controllare. Poi subito sulla strada ho visto che mi chiedo con lui magari fuori per le strade, ecco, piccolino, ma furbetto, molto furbetto, quindi quando capita mi faccio tenere i bambini per riuscire a uscire, quindi non è che esco tutti i sabati, anzi vado tutti i sabati a lavoro la mattina e poi sto a casa, oppure esco il pomeriggio con i bambini, quello sì. Purtroppo è così, quando si ha bambini è un casino, meno male che c'è questo nido che mi lascia un po', se no me l'avrei dovuto dire tutta cantara di io. C'è questo nido che lo portiamo lì al nido, e l'otto non ce n'è neanche il nido. Cos'è l'otto? Cosa capita adesso? Adesso devo guardare. Allora, sabato, se non sbaglio, è 6, 7, lunedì. Lunedì prossimo, sai, ve lo dico a mezz'oretta, se lo vuole. Perché si fa sabato, 3 giorni. Se lo vuole, sta con loro. Adesso parlava, me lo tengo io, da voi. Vediamo. Vediamo, io glielo provo a dire. Facciamo anche io a Olbia, se... perché il 5 c'è una serata, cioè. Mi sa che devo andare al teatro comunale, tanto non mi piace, a me c'è rinchiuso, vendi concerti, mamma mia, e poi vediamo se c'è qualche altra cosa. Che cosa devi fare? Vai, c'è la corrida. No, c'è altra roba, cioè non mi ricordo cosa a Marazzurri è. Robettina così. E ci fanno altri anche gli spettacoli, non solo la corrida. Non è che amo molto stare chiuso in teatro, lavorando. E vabbè, però ti fa qualche extra, cioè tanto se non sei bambino per la vita tutti i giorni. Guarda che uno stipendietto non basta, lo dico io perché una vita lavorando, mamma single, quindi so cosa significa, e poi mantenere 3 figli in casa e tutte tracche, andare a correre, cioè spendere un sacco di soldi per la spesa, io spendo 600 euro al mese solo di spesa. Sicuramente tra un po' partirò a Cagliari, sono sicuro, c'è qualche cosa in quelle zone, mi sembra che ho già sentito qualcosa. Ad Alghero quest'anno siamo pieni a bomba, siamo già ai primi concerti che dobbiamo fare, tanta roba c'è. Mi pare che ho visto perché siccome collaborano con noi, i concerti grossi li facciamo noi. Mi pare che dobbiamo fare i Pooh, Angelina Mango e Mamarrone, e poi chissà quanto se ne aggiungeranno. Meglio, è un po' più lavoro per voi, ben venga. Io faccio audio, luci, di tutto posso, sempre andando in gioco. Meglio sì, perché sono un bel di soldi. Meglio mettere in busciacca. meglio mettere in l'usciata, no? Io sono cominciata a lavorare in queste imprese di pulizia dopo 20 anni che ho fatto lavori di ristrutturazione nella parte di ristorazione, la papiata, aiuto a cuoco e tutto il resto, aiuto a cucina, diciamo, no, aiuto a cuoco, aiuto a cucina. Non mi piace neanche come fraglio, ho fatto la gavetta un po' di dappertutto, anche la tua pizzeria l'ho fatto. Però dopo 20 anni di ristorazione, che lavoro di mattina e sera e non c'è, rientravi a casa, ti pulivi casa, cucinavi la cena a tutti e poi tornavi a lavoro e poi di notte viaggiavi, no. Confronto, sto molto meglio di prima, non ho più voglia di guidare, tornare, trovarmi gente che anche senza luci ti taglia la strada durante la notte, è capitato più di una volta, ho missili che ti passavano al fianco della macchina, che una volta uno mi ha stracciato anche il fischietto, meno male che non mi ha preso in pieno. Perché è un miserabile, per carità, non sa guidare, non sa. E tu pensa che io alle 3, alle 4 del mattino me ne devo andare da Perdagnetta con la moto. Anche quello non è semplice. No, lavoro, guarda, di notte non penso che lo rifarò. Se lo rifarò, tipo lavapiatti aiuto, preferisco in zona limitrofe a qua, dove abito. Macchina, farmi la 131, no, viaggiare così, anche se li punti vicino, quello che vuoi, pure viaggiare, manco per idea, mi ci muovo con la macchina, no, no, devo stare più attenta a chi, cioè, dopo essere stanca dal lavoro, devo stare attenta a chi guida, ed è un pericolo gli altri per me. Quindi ho preferito farmi queste ore tutta da questa impresa, vediamo un pochettino, poi sangrare un po' di ore e così riesco a ritirarmi un titolo stipendiato. Lo so, pensa che noi quando usciamo fuori sono anche 200, 300, 250 chilometri, zona di Cagliari, un giorno ci sono sceso a San Rocco, ci sono scesi, è più giù di Cagliari. Ma sei in compagnia quando scendi per lavoro comunque, non sei da solo? Sì, sì, c'è la macchina della ditta, sì, siamo in compagnia, sì. Tu pensa quanti chilometri ti fermo, un bel di chilometri. Sono stato un sacco di posti, sono stato a Oristano, sono stato a Lanusei, sono stato un po' di posti, a Nuoro, ho fatto lì al campo sportivo, al Redentore, siamo stati un sacco di posti, siamo stati. Buono, buono, ma devi stare anche per il concetto di azienda il 20 aprile. Capito. C'è il 21 aprile, se non sbaglio, il concetto di azienda a Austria. Sì, sì, a farlo noi. Noi abbiamo fatto l'altro giorno con la Thomas, la ditta dove lavoro io. Io ho caricato il camion io, quindi lo so perfettamente. Dobbiamo fare la Ossi, il concetto di azienda e a Sennori pure, se non si aggiungono altre date. Il 29 a Sennori. Allora chiedo a te, titolo informativo, dove lo fanno il concetto di azienda a Ossi? Lo fanno a Letterai? Oppure al San Pezzo Vattenfrau, all'interno di Dio? Perché non lo so, devo chiedere a Gesuino, che lui lo sa meglio di me, perché io ho già il secondo anno che lavoro con loro. Ok, grazie. Se ti capita di dirlo magari a Antonello, così mi fa sapere. Credo che salirò il 21 aprile con i ragazzi, sperando che non siano raffreddati, perché sarà pazienza, che tanto è periodo di caldo e freddo, si stanno ammalando tutti e due. Se no, Guarda, se lo sapevo aprita stamattina, l'avrei chiesto a Luca Parodi, l'avrei chiesto, che abbiamo mangiato, abbiamo pranzato insieme stasera. Lo voglio Andrea, me. È lui che dirige tutto, l'avrei chiesto a lui. Vabbè, se ti capita che ti ricordi, magari dai la risposta a Antonello, capito? Così glielo chiedi a Antonello. Sì, c'è cosa che io dico a lui. Non te ne piace tanto in casa tua. Allora, l'antenna in casa è un casino perché, allora, anche con la piccola antenna di quella che si attacca alla macchina, non prende, capito? Per riuscire ad avere un po' di segnale dovrei andare in terrazzino, ma c'è freddo, adesso devo mettere il sistema di terrazzino con le murature e tutto, che stiamo facendo preventivo, devo metterlo in sicurezza. Ci sono stati delle infiltrazioni di acqua e quindi mi si è gonfiato tutto il muro, quindi adesso devo montare la roba che c'è nel terrazzino, poi il sistema me la giù in garage. Diciamo una scocciatura, però a me mi fanno il lavoro. E poi lascerò il terrazzino senza struttura, quindi l'acqua entra nel campo più. Poi più avanti, soldi per me stessa, mi sistemo il terrazzino fatto tramite Overplus, ci metto una tenda di quelle PVC, in modo che se batte acqua non mi bagna dentro e tutto, capito? Però me lo vedo, è più riparabile, poi d'estate si può aprire la tenda. E invece dalla parte della veranda, dalla parte della via della residenza, lì mi ha piazzato una specie di dipolo, dietro l'Antonello, del filo del stendino. Però entro raramente, capito? Io non vi sento, perché non ho quella potenza che possa avere un'antenna sul tetto, capito? Ma io gli ho attaccato quello, anche se gliela metti piccola, le ce la smatti sul tetto, facci il cavo in modo che non se ne accorge nessuno, e vorrei che anda, e come se va. Anche se non è, anche con un'antenna piccola, basta che sia sul tetto. Funziona. Guarda, anche se ci sbatti su una boomerang di quelle grandi, ha già tanto imbatti da inchiodi, qua arrivi forte. Ma no, vabbè, Antonello con l'antenna di qua prende bene, abbastanza bene, quello già lo so, ma l'antennino è che il problema è scendere il cavo, come dici vabbè, tu, okay. Non si sa dove cavolo farlo passare, capito? Anche perché lui non può, ma no, passarlo tra i cavi all'interno vicino alla televisione, cioè deve passare da un appartamento all'altro per fino a finire giù. Dal tubo dello scarico non mi sembra il caso, anche perché in facciata si vede, capito? Sia da una parte che dall'altra. E quindi è più facile dal tetto alla mansarda dove è lui e basta. Poi guarda cazzo, quando capita, salgo su e faccio una chiacchierata. Sì, ma se vuoi si può fare, il cavo già si può passare, basta guardare bene, lo leghi da qualche parte, bene fatto, già si può fare un travaglio, io abito al primo piano e già l'ho fatto, siccome mio padre non voleva mai mettere un sacco di cazzate, io qua quando sono arrivato, domani metto l'antenna sul tetto, e prima ce l'avevo nella finestra, Mudi e Cagliardi, l'ho messa, ho buttato il capo, vai, ci dimmi da mezzo, ma l'ho pure cambiata. Pensavo che in questo cavo di condominio rompono, capito? La prima cosa che vengono a puntare è che c'è una canna a pesca. Subito stanno col telefono in mano qua con il capo condominio, capito? Ti voglio dire. Non è semplice, l'unica è avere più avanti, cioè un domani, una casa che sia senza condominio, perché a me senza queste barriere architettoniche che, guarda, io per esempio essendo al primo piano ci passa a filo Gian Piero poverino con la sedia a ruota elettrica, ma a filo, cioè i centimetri proprio sono contati qua, ma anche sul vano delle scale si parla, perché lui deve riuscire a girare e entrare qui dentro casa, non è proprio semplice. Ma a me aveva voluto, e l'antenna mi sono piazzata, vai ci me la giuro, ma l'antenna mi sono piazzata, io a viaggia, proprio così, qua sono stati tutti zitti, se no ero pronto a dirglielo, mi ecco, ma che non ti nate, guarda di cosa che cosa accabo, ma vabbè. E mi faccio rispettare qua. Secondo te non mi ho buonato in un'altra gabbicciuria? Sono le cavolate loro. Vai, ma vai, vai. Guarda, l'unica è qua. Se non ci fosse stato condominio, perché ognuno di noi pagavano una quota, una cosa e l'altra, e poi per la facciata, qua c'è una serie di, non persone giovani, una serie di, cioè, donne, persone, donne, uomini, una certa età, qua, capito? E giovani qua. E giovani, cioè ti parlo anche dell'età di Antonello che ha 60 anni, poi c'è gente più grande, capito, che la pensa in un certo modo e se la girano in un certo modo, capito? Quindi possiamo parlarne quanto ne vogliamo del fatto dell'antenna, una cosa dell'altra, e tanto poi rompono le scatole sempre. Sì, a me aveva voluto, e la faccia in culo mi sembra, ciao. Comunque il capo l'avrei passato lo stesso. Tutto a passare il capo, mi fu l'antenna, cioè la metti da Antonello e a posto. Ma sai cos'è? Devono essere anche tutti condomini per legge. Aspetta che è caduto Antonello. Vai, tranquilla.